Finiani compatti, dimissioni o fiducia. Berlusconi questa sera riunisce i suoi. Per Assange ancora guerra tra hacker. Londra smentisce trattative per l'estradizione. Arriva una task force per Yara. Lo sco in campo della ragazzina, nessuna traccia. Parigi bloccata da 10 cm di neve ed è ancora caos. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Meno 4 al voto di fiducia ed è giornata di vertice e trattative. Berlusconi questa sera riunirà i suoi, Gianfranco Fini lo ha già fatto. La politica, insomma, è oggi in primo piano e allora apriamo andando a Roma da Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Buongiorno, PDL e FLI sempre in contrasto per il voto del 14 dicembre, ma il premier Silvio Berlusconi è in recupero rispetto ai numeri di Montecitorio. Tra coloro che potrebbero sostenere il governo, l'imprenditore Massimo Calearo, ex PD e API, e Domenico Scipolliti e Bruno Cesario. E tra breve ci sarà qui una conferenza stampa a Montecitorio per rivelare come voteranno. Nel frattempo Future Libertà riunisce il partito, come avete detto voi, ha riunito il partito per decidere le prossime mosse. Italo Bocchino proponeva un Berlusconi bis, ma l'ipotesi è stata bocciata dal ministro della giustizia Angelino Alfano. E oggi si riuniscono anche i vertici del PDL per fare il punto della situazione. È difficile che ci sia un cambiamento di programma sulla linea dell'intransigenza. La compravendita di voti va avanti con la speranza per il premier di raggiungere il pareggio o la fiducia. Il ministro della difesa Ignazio La Russa confessa: ci sono buoni segnali, vogliamo che il 14 si esca dall'ambiguità. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Sentivamo Calearo, Cesario e Scilipoti scopriranno tra poco le carte tra i deputati in uscita dal centro-sinistra. Politici che cambiano schieramento, è giusto chiamarli traditori. Era il sondaggio, il nostro sondaggio questa mattina, Mattino 24. Gli ascoltatori di Radio 24 hanno risposto così: sì per il 71%, no per il 29%. E intanto che fa l'opposizione? Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'opposizione è di fatto spettatrice di quanto sta succedendo all'interno della maggioranza. Il centro-sinistra guarda però al 14 dicembre con obiettivi diversi. Italia dei Valori e Sinistra chiedono che si torni al voto in caso di sfiducia a Berlusconi. Partito Democratico e centristi auspicano la creazione di un governo tecnico di unità nazionale che traghetti il paese fuori dalla crisi economica. In particolare il PD con Bersani respinge al mittente le accuse di tramare per un eventuale ribaltone. Sentiamo allora Bersani che si rivolge così a Berlusconi. È già chiaro il fallimento politico di questo centrodestra, comunque poi la si giri, questo centrodestra non sarà in grado di tirar fuori i piedi da questo fallimento politico. Credo anche che argomenti che stanno circolando in queste ore del tipo stabilità, instabilità, ribaltoni, siano al solito un ribaltamento della verità e della realtà. Ha fatto tutto lui, ha generato fallimento e instabilità. Bersani parla quindi di un'ipotesi di compravendita di parlamentari e adombra lo scenario della corruzione. Casini UDC chiede che Berlusconi faccia un passo indietro, solo allora si potrà riaprire il confronto, dice il leader centrista, per un governo che riveda la legge elettorale. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta, ma a Roma noi invece restiamo perché nella capitale scoppia Parentopoli. Prima le 850 assunzioni all'ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico della capitale, ora altre 1000 all'AMA, la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti, tutte avvenute per chiamata diretta dopo l'elezione a sindaco di Gianni Alemanno. A Roma si allarga la bufera sulla cosiddetta Parentopoli, bufera che ieri ha fatto la sua prima vittima. Il caposcorta del primo cittadino ha rinunciato all'incarico dopo la notizia che fra i neoassunti c'erano anche i suoi due figli. Scorrendo la lista delle assunzioni però ci sono anche molti altri nomi di mogli, figli, generi, cugini e parenti più o meno vicini di diversi esponenti politici, quasi tutti vecchi militanti della destra romana e ora con incarichi al comune o in Parlamento. ATAC e AMA assicurano di aver rispettato la legge, il sindaco Alemanno giura di non essersi mai occupato di assunzioni e dice che anche per le municipalizzate in futuro dovrebbero avvenire per concorso, una difesa che però non convince l'opposizione capitolina che chiede le sue dimissioni, questo mentre sulla Parentopoli romana, sia la Procura sia la Corte dei Conti hanno iniziato ad indagare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I giudici del filone più importante del processo Parmalat sono riuniti in questi minuti in Camera di Consiglio a Parma. La sentenza, ricordiamo, vede imputate 17 persone, tra cui il patron della multinazionale del latte Callisto Tanzi. La sentenza, dicevamo, potrebbe arrivare già questo pomeriggio o in prima serata. Nuova bucciatura per Dublino. Anche l'agenzia Fitch ha tagliato il rating sul debito dell'Irlanda di 3 gradini a BB+, da A+, con outlook stabile. Ripresa sì, ma con incertezza, è lo scenario che arriva intanto dalla Banca Centrale Europea. L'andamento dei conti pubblici continua a preoccupare la Banca Centrale Europea in un momento in cui i mercati finanziari stanno tenendo sotto pressione i paesi più deboli della zona euro. Nel suo bollettino mensile, pubblicato oggi a Francoforte, l'Istituto Monetario parla di preoccupazione per la sostenibilità dei bilanci di alcuni paesi. Non mancano i rischi: un aumento del costo del servizio del debito, una deriva bancaria che impone ai governi nuovi aiuti agli istituti di credito, inaspettate difficoltà politiche nell'introdurre le misure di risanamento già previste. Nel suo bollettino la BCE non lancia messaggi particolari sul fronte di politica monetaria. Per ora, nonostante la ripresa economica, prevale la cautela a causa della crisi finanziaria e politica che sta investendo l'Europa. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Le ricerche della ragazzina scomparsa nel bergamasco, tutto da rifare. Questa mattina è arrivato a Bergamo anche il direttore dello SCOL, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Gilberto Caldarozzi. Intanto si continua a cercare, tra i volontari il sindaco di Palazzolo, un paese vicino. Si procede facendo delle verifiche sulle situazioni che ancora non abbiamo verificato, quindi senza indicazioni precise si va un po' a verificare tutte le situazioni che potenzialmente possono essere collegate. Adesso stiamo facendo un'analisi di tutte quelle che sono le camerette degli impianti fognari della zona per verificare anche questa possibilità. C'è già chi la chiama ciberguerra, quel che succede in rete tra sostenitori e non di Julian Assange. Intanto il fondatore di Wikileaks attende di vedere i suoi avvocati. Nel carcere inglese che lo ospita da lunedì, Julian Assange incontrerà oggi i legali che lo assisteranno nella vicenda dell'estradizione richiesta dalla Svezia per reati di stupro. A Stoccolma si nega recisamente l'esistenza di trattative con gli Stati Uniti per una seconda estradizione del fondatore di Wikileaks, ma non ci credono molto i sostenitori di Assange, che lo difendono da accuse che giudicano politicamente guidate e passano all'attacco rigorosamente cibernetico. Aumentano infatti i disobbedienti digitali che cancellano i loro account dai siti che hanno tradito Wikileaks e aumentano gli atti di pirateria informatica contro tutti coloro che vengono giudicati dalla parte sbagliata. I gestori, che non accettano più donazioni al sito di Assange, ma anche la procura svedese o l'ex governatore dell'Alaska Sarah Palin, che su Assange non ha mai risparmiato le critiche. Ma chi di internet ferisce, di internet perisce. Facebook e Twitter hanno infatti sbattuto fuori per attività illegali il gruppo di hacker dal nome Anonymous, che aveva usato i due social network per organizzare gli attacchi a Mastercard e Visa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un'altra guerra in qualche modo, quella che Pechino ha scatenato contro i sostenitori di Liu Xiaobo, aspettando la consegna del premio Nobel. Pechino si prepara a modo suo alla cerimonia della consegna del premio Nobel per la pace al dissidente Liu Xiaobo. Secondo quanto reso noto da Amnesty International, sono più di 250 le persone fermate dalla polizia, sottoposte agli arresti domiciliari o alle quali è stato proibito di lasciare il paese. Oltre alla moglie e ai fratelli del premio Nobel, tra questi c'è anche l'artista Ai Weiwei, cui è stato impedito di recarsi a Londra per presenziare una mostra delle sue opere, probabilmente nel timore che da lì potesse raggiungere Oslo e manifestare il proprio sostegno. E se la Cina ha organizzato oggi una sorta di contropremiazione con il premio Confucio per dimostrare che cos'è la pace dal punto di vista cinese, non si è arresa la furiosa condanna del governo per l'assegnazione del Nobel al dissidente numero uno, definita un'oscenità. 54 anni, scrittore, intellettuale, ex della rivolta di Tiananmen, Liu Xiaobo è stato condannato a 11 anni di carcere per sovversione per aver partecipato alla stesura e alla diffusione del manifesto Carta 08 che chiedeva una riforma democratica e la fine del regime a partito unico. Antonio Talia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Anche l'esercito britannico è stato coinvolto per far fronte al dicembre più freddo degli ultimi 100 anni in Scozia, con le temperature scese a meno 18. Il primo ministro britannico David Cameron ha annunciato che i militari di Sua Maestà sono pronti ad aiutare la popolazione. In Francia, invece, Parigi si è bloccata per 10 centimetri di neve e ora è protesta. Andiamo a Parigi da Igor Fiatti. Buongiorno. Sì, buongiorno da Parigi. Sono nevica innanzitutto oggi? No, nevica non nevica più e splende il sole. Per la precisione, rispetto a quello che dicevi, sono bastati 11 centimetri di neve. Vabbè, un centimetro in più. Esatto, la capitale francese e tutta la regione circostante dell'Île-de-France. Questa notte, non potendo far rientro a casa, oltre 4.000 persone sono state ospitate o in centri di emergenza oppure in ricoveri di fortuna. E adesso, come dicevamo, non nevica più, ma i disagi però proseguono, tanto che il ministro dell'interno Brice Hortefeux ha raccomandato agli abitanti di rinunciare all'automobile. E intanto però, come dicevate voi, è polemica sulla gestione dell'emergenza, la situazione è ben lungi dall'essere tornata alla normalità. I trasporti pubblici funzionano tuttora a singhiozzo, i treni accusano ritardi e resta difficile volare dagli scali di Roissy e Orly. Questa mattina invece, e questa è una gioia per i turisti, è stata riaperta la Torre Eiffel, che ieri era stata chiusa al pubblico per tutta la giornata. E con questo per ora da Parigi è tutto, linea Milano. E grazie a Igor Fiatti. Intanto un nuovo deciso abbassamento delle temperature atteso tra oggi e domani anche in Italia, in particolare al centro-sud. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Le 13:15 minuti, le notizie di oggi di GR24, Finiani compatti, dimissioni o sfiducia. Berlusconi non cede questa sera, riunisce i suoi. Per Assange ancora guerra tra hacker, Londra smentisce trattative per l'estradizione. Arriva una task force per Yara, lo SCO in campo della ragazzina, nessuna traccia. Agenti di polizia Villa San Martino, protesta per i tagli alla sicurezza e in campo ancora anche i lavoratori dello spettacolo. E ripartiamo da qui, protestano dunque gli agenti di polizia, un centinaio sono ad Arcore davanti alla residenza del Premier, altre manifestazioni sono in corso in molte città italiane, protestano contro i tagli al bilancio delle forze dell'ordine. E a protestare sono di nuovo anche i lavoratori dello spettacolo contro i tagli. Roberto Grossi, presidente di Federculture, al microfono di Alessandra Schepisi. Noi vogliamo riaffermare il diritto alla cultura, lo dice la Costituzione, però più se ne parla e meno si agisce, quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, vogliamo riaffermare il fatto che la cultura è un ramo dell'economia, l'industria creativa e culturale vale circa il 6% di tutta la ricchezza del paese, però guarda un po', di fronte a questo 6% lo Stato dà al Ministero dei Beni Culturali lo 0,21, questo è il bilancio dei beni culturali, il Ministero dei Beni Culturali, quindi non lamentiamoci se crolla Pompei, perché poi non c'è una politica di tutela e valorizzazione, non lamentiamoci se chiude la società Dante Alighieri che tramanda la lingua nel mondo, non lamentiamoci se il cinema, l'opera, le nostre eccellenze poi hanno difficoltà. E quella che vi raccontiamo oggi è una storia. Napoli rischia di perdere il Madre, il Museo d'Arte Contemporanea. Alle polemiche divampate nei giorni scorsi su costi e finanziamenti è arrivata dal mondo dell'impresa un'offerta singolare. L'MBDA, il Consorzio Europeo Costruttore di Missili e Tecnologie per la Difesa, si è offerto di dare il proprio sostegno economico al Madre. Ma da parte degli artisti c'è stata una levata di scudi. Minacciano di ritirare le proprie opere e lasciare il museo vuoto. Adriana Fracchi ha chiesto un parere all'artista Michelangelo Pistoletto. È ancor peggio che pensare di sponsorizzare la ricerca sul cancro attraverso case produttrici di sigarette, ma pensare che l'arte possa sostenere il concetto di guerra mi sembra la cosa più antitetica pensabile, insomma. Il concetto di armi e di guerra è un concetto contrario, secondo me, a quello che è invece la prospettiva che l'arte può proporre per il mondo. Io penso che sia una provocazione e spero che questa provocazione possa portare anche agli artisti un'opportunità per dichiarare cosa pensano rispetto al mondo, rispetto alle politiche, rispetto alle economie e rispetto soprattutto al concetto di sopravvivenza in questo pianeta. L'arte dovrebbe farsi interprete di una missione che lo spirito creativo può portare alla società. E non è certo accettando di essere sponsorizzata dai missili che lo fa. E quella che si annuncia da Torino è la prima class action in qualche modo sui mancati finanziamenti alla scuola, iniziativa collettiva del comitato SOS Scuole Bruino, piccolo centro alle porte di Torino. La ragione dell'azione, dicono, si basa sull'assunto che se il ministero non avesse tagliato i fondi, i genitori di 700 alunni di questo paese, Bruino, in provincia di Torino, non sarebbero stati costretti a pagare per il normale funzionamento della scuola. Il comune ha richiesto per ogni alunno una quota di 25 euro lo scorso anno e 50 euro per quest'anno per coprire, dice, le spese ordinarie.

E prima di chiudere ancora una volta con la politica abbiamo aperto, ancora una volta con la politica abbiamo chiuso, chiudiamo con gli ultimi aggiornamenti. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, accompagnato dal sottosegretario Gianni Letta, è arrivato poco fa in Vaticano, è iniziato dunque il pranzo con il segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Nel pomeriggio Berlusconi incontrerà poi i suoi invece per fare il punto sulla crisi politica. Con questo noi ci fermiamo, le 13, 24 minuti e 30 secondi in questo istante, in regia Peter Bescapè, gli aggiornamenti di GR24 come sempre alle 14 c'è Italia in controluce, ancora un saluto da Anna Migliorati. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.